sola resto qui tra i lividi e la polvere, non risponderò. Lasciatemi dormire ancora un po', so che non si può dire sempre di no, esco solo se io ti sento con me, camminerò di più anche se non ci sono gli alberi, domani, oggi no. Lasciatemi dormire ancora un po', lasciatemi dormire ancora un po', lasciatemi dormire ancora un po'. Senza te, baby, la forza di combattere non c'è, dimmi sai dov'è, mi sento così fragile, sicuro, chiudo gli occhi anche al pensiero, sulla faccia un velo nero, io non risponderò. Lasciatemi dormire ancora un po', quello che non c'è, non tornerà mai, l'abitudine di cercarti lo sai, parlerò di più guardando tra le nuvole, domani, oggi no. Lasciatemi dormire ancora un po', lasciatemi dormire ancora, lasciatemi dormire ancora, lasciatemi dormire ancora. Lasciatemi dormire.